Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. A suo ritorno dalla Francia, Fabrizio era sembrato alla contessa Pietranera un po' come un bel giovane straniero che lei una volta avesse conosciuto molto bene. Se Fabrizio le avesse parlato d'amore, lo avrebbe amato. E del resto Gina provava già da tempo un'ammirazione appassionata, potremmo dire senza limiti, per lui e per tutto quello che lui faceva. Ma c'era un tale calore di innocente gratitudine, di buona amicizia negli abbracci di Fabrizio, che lei avrebbe avuto orrore di se stessa se si fosse sorpresa a cercare le tracce di un altro sentimento in quell'affetto quasi filiale. In fondo, pensava, qualcuno degli amici che mi hanno conosciuta 6 anni fa alla corte del principe Eugenio potrebbe ancora trovarmi graziosa, anche giovane, ma per lui io sono una donna rispettabile, anzi, per dire le cose come stanno, senza riguardi per l'amor proprio, una donna anziana. Gina si faceva delle illusioni sulla propria età, ma non erano esattamente le illusioni che si fanno di solito le donne. Del resto, all'età di Fabrizio, continuava a pensare, si tende a esagerare un po' quelli che sono gli effetti del tempo sulla bellezza di una donna. Un uomo un po' più avanti con gli anni. Gina stava camminando per la sua stanza. Si fermò davanti a uno specchio, sorrise. Da qualche mese il cuore della signora Pietranera era insidiato piuttosto seriamente e da uno strano personaggio. Poco dopo la partenza di Fabrizio per la Francia, Gina era stata presa da una grande malinconia. Non se l'era ancora confessato, ma Fabrizio era diventato molto importante per lei. Tutto quello che faceva le sembrava noioso, senza sapore. Si immaginava che Napoleone, per legare a sé gli italiani, avrebbe preso Fabrizio come aiutante di campo. L'ho perduto, pensava, e piangeva. Non lo rivedrò più. Mi scriverà, ma che cosa sarò diventata per lui tra 10 anni? Fu in queste condizioni di spirito che fece un viaggio a Milano. Sperava di aver notizie più dirette di Napoleone e forse, chissà, indirettamente anche di Fabrizio. La signora Pietranera era in una strana posizione. Partito Fabrizio non aveva molto da sperare nel futuro e il suo cuore aveva bisogno di cose nuove che potessero consolarlo. Arrivata a Milano si appassionò all'opera di moda. Andava a chiudersi per lunghe ore alla Scala tutta sola nel palco del generale Scotti, il suo amante di una volta. Gli uomini che cercava di incontrare per avere notizie di Napoleone e del suo esercito le sembravano grossolani, volgari. Poi a casa stava al pianoforte fino alle 3 del mattino. Una sera alla Scala, nel palco di un'amica, dove era andata a sentire se c'erano notizie dalla Francia, le presentarono il conte Mosca, ministro di Parma. Era un uomo simpatico, parlava della Francia e di Napoleone in modo tale che lei trovò nuove ragioni per sperare o per aver paura. La sera dopo Gina ritornò in quel palco. Ci tornò anche quell'uomo intelligente e lei provò molto piacere a parlargli per tutto il tempo dello spettacolo. Dopo la partenza di Fabrizio non aveva più passato una serata così viva. L'uomo che lei trovava tanto divertente, il conte Mosca della Rovere Sorezana, era allora ministro della guerra, della polizia e delle finanze di Ernesto IV, principe di Parma, famoso per una severità che i liberali milanesi definivano vera e propria crudeltà. Mosca poteva avere 40-45 anni, aveva lineamenti molto marcati, non si dava mai arie e c'era in lui qualcosa di semplice, di allegro, che lo rendeva subito simpatico. Sarebbe stato ancora un uomo estremamente piacevole se per una strana trovata del suo principe non fosse stato obbligato a incipriarsi i capelli come prova di buoni sentimenti politici. In Italia non hanno paura di urtare la vanità del prossimo. Arrivano in fretta a usare un tono piuttosto intimo, a dire cose molto personali. Il rimedio è semplice. Se qualcuno si sente offeso, basta non rivedersi più. «Ma perché mai vi incipriate i capelli?» disse la signora Pietranera a Mosca la terza volta che si incontrarono. «Mettersi in testa della cipria, un uomo come voi, simpatico, ancora giovane, che ha fatto la guerra in Spagna dalla nostra parte. Il fatto è che in Spagna non ho rubato niente, e bisogna pure che io viva. Andavo matto per la gloria. Un elogio del generale francese che ci comandava, era Gouvion Saint-Cyr, voleva dire tutto per me. Io stavo mangiandomi tutti i miei soldi al servizio di Napoleone, e quando Napoleone è caduto si diede il caso che mio padre, un uomo dall'immaginazione piuttosto fervida che già mi vedeva generale, stesse facendomi un palazzo a Parma. Nel 1813 tutto quello che avevo era un grande palazzo da finir di costruire e una pensione. La franchezza, la disinvoltura con cui parlava quell'uomo, ministro di un principe tanto temuto, suscitò la curiosità della contessa. Dato il suo titolo, se l'era immaginato noioso, pieno di importanza, e ora si trovava davanti un uomo che si vergognava dell'austerità della sua posizione. Mosca le aveva promesso di farle avere tutte le notizie dalla Francia che avesse potuto raccogliere. Questo voleva dire commettere una grande indiscrezione a Milano nel mese che precedette Waterloo. In quel momento per l'Italia si trattava di essere o non essere. A Milano avevano tutti la febbre di speranza o di paura, e in quelle condizioni di tensione collettiva Gina andò in cerca di informazioni sul conto di un uomo che parlava con tanta leggerezza dell'invidiatissima posizione che costituiva la sua unica risorsa. La signora Pietranera venne a sapere cose molto strane, interessanti proprio per la loro stranezza. Il conte Mosca della Rovere Sorezana, le dissero, stava per diventare primo ministro e favorito ufficiale di Ranuccio Ernesto IV, sovrano assoluto di Parma e anche uno dei principi più ricchi d'Europa. Mosca ci sarebbe arrivato già da molto a quell'altissima carica se si fosse comportato in modo un po' più austero. Sembrava che il principe gli facesse spesso la lezione su questo punto e che in quelle occasioni lui rispondesse liberamente: «Che cosa importano a vostra altezza i miei modi, dal momento che io tratto così bene i vostri affari?» Un giorno, tornando al suo albergo, Mosca pensò: «Non è soltanto una donna incantevole. Quando passo la serata nel suo palco mi escono di mente certe cose di Parma che soffro a ricordare». Malgrado la sua aria spiritosa e i suoi modi brillanti, Mosca non aveva un'anima alla francese, non era capace di dimenticare le sue pene. Se aveva una spina nel letto, lui doveva spuntarla a forza di darle contro con la carne viva. Chiedo scusa per quest'ultima frase, una frase all'italiana. Il giorno dopo questa scoperta, nonostante tutti gli affari che aveva da sbrigare a Milano, a Mosca sembrò che le ore non passassero mai, non riusciva a star fermo, sfiancò i cavalli della sua carrozza. Verso le 6 montò a cavallo per andare al corso, dove sperava di incontrare la signora Pietranera. Non la vide. Allora gli venne in mente che la scala apriva alle 8. Nella platea immensa c'erano al massimo una decina di persone. Si sentiva imbarazzato. «Ho 45 anni suonati», pensava, «e sto facendo certe pazzie da far arrossire un sottotenente. Possibile. Meno male che non lo sa nessuno». Uscì in fretta dal teatro e cercò di far passare il tempo passeggiando nelle deliziose strade lì intorno. Tornò alla scala, prese un palco in terza fila. Da là avrebbe potuto guardare senza essere notato verso il palco di seconda fila in cui sperava di vedere apparire la contessa. Era innamorato. Le due lunghe ore di attesa non gli parvero poi tanto lunghe. Nessuno poteva vederlo e si lasciava andare felice alle sue pazzie. Esser vecchi, pensava, vuol dire prima di tutto non essere più capaci di queste bambinate deliziose. Finalmente la contessa arrivò. Mosca la guardò con il binocolo tutto eccitato. Giovane, brillante, leggera come un uccello, pensava. Deve aver meno di 25 anni. Non è soltanto bella. Non ho mai visto una donna così sincera, tanto incapace di agire con prudenza, così pronta a lasciarsi andare alle impressioni del momento, a farsi entusiasmare da ciò che è nuovo. Le capisco le follie del conte Nani. Dovette fare uno sforzo per entrare nel palco, ma era un uomo intelligente, seppe approfittarne. Non cercò di mostrarsi disinvolto, di fare lo spiritoso, buttandosi a raccontare qualcosa di divertente. Ebbe il coraggio di essere timido. Seppe usare del suo spirito, lasciando intravedere il suo turbamento, senza essere ridicolo. Se lei la prende male, pensava, è finita. Timido e con i capelli incipriati. E senza la cipria si vedrebbe che sono grigi. Però questa timidezza che provo è vera, e allora può sembrare ridicola soltanto se la esagero, se la ostento. Ma Gina si era annoiata tante volte al castello di Griante, di fronte alle teste incipriate di suo fratello, di Ascanio, di quei seccatori ben pensanti del vicinato, che non pensò a occuparsi della pettinatura del suo nuovo spasimante. «La verità, signora», disse sorridendo Mosca, «è che a Parma è un vero mortorio, e dunque mi si dovrà pur consentire di tuffarmi nel piacere quando ne ho la possibilità. Così per una sera e senza conseguenze lasciate che io faccia davanti a voi la parte dell'innamorato. Ahimè, tra pochi giorni sarò così lontano da questo palco che mi fa dimenticare tutti i miei pensieri e anche tutte le convenienze, direte voi». 8 giorni dopo quella visita tanto insolita al palco della Scala, e in seguito a certi piccoli episodi che forse sarebbe troppo lungo raccontare, Mosca era completamente pazzo d'amore. E Gina era già arrivata a pensare che in fondo l'età non contava, dato che lui era così simpatico. Erano a questo punto quando Mosca fu richiamato a Parma. Si sarebbe detto che il suo principe avesse paura a star solo. Gina ritornò a Griante. Da parte sua, Mosca era quasi in buona fede quando le offriva di dare le dimissioni, di lasciare il ministero, di andare a vivere con lei a Milano o altrove. «Ho 400.000 franchi», le scriveva, «e potremo sempre ricavarne 15.000 lire di rendita». Gina pensava, «un palco dei cavalli». Era bello pensare a cose del genere. Il paesaggio del lago le sembrava di nuovo incantevole. Andava sulle rive a pensare a quella vita brillante che ora, inaspettatamente, tornava ad essere possibile. Si vedeva sul corso, a Milano, felice, allegra, come al tempo del viceré. Sarò come quando ero giovane, o almeno sarà una vita attiva. A volte la sua violenta immaginazione le impediva di rendersi conto della realtà. Ma Gina non si lasciava mai andare a quelle volontarie illusioni che derivano dalla mancanza di coraggio. era prima di tutto una donna in buona fede con se stessa. In tutte le lettere Mosca non faceva che chiedere sempre più freneticamente un nuovo incontro a Milano. Riuscì a ottenerlo. «Se vi dicessi che quella che provo per voi è una passione sfrenata», gli diceva un giorno la contessa a Milano, «vi direi una bugia. Sarebbe troppo bello poter amare oggi, a 30 anni passati, come amavo una volta, quando ne avevo 22. Ma ho visto finire tante cose che credevo dovessero durare per l'eternità. Provo per voi una amicizia molto affettuosa. Ho piena fiducia in voi e tra tutti gli uomini siete quello che preferisco». Lei era convinta di essere assolutamente sincera, ma in quella dichiarazione, verso la fine, c'era una piccola bugia. Probabilmente Fabrizio, se avesse voluto, avrebbe soverchiato ogni altro sentimento nel cuore di Gina. Ma agli occhi di Mosca Fabrizio era soltanto un ragazzo, e il conte, arrivato a Milano 3 giorni dopo la partenza di quello sventato per Novara, andò subito a parlare in suo favore al barone Binder e fu del parere che l'esilio di Fabrizio sarebbe stato definitivo. Mosca non era venuto da solo a Milano. Nella sua carrozza c'era anche il duca Sanseverina Taxis, un bel vecchietto di 68 anni, con macchie bianche tra i capelli grigi, molto compito, tutto lindo, ricchissimo, ma non abbastanza nobile. I milioni li aveva fatti solo suo nonno, appaltatore generale delle entrate dello Stato di Parma. Suo padre si era fatto nominare ambasciatore alla corte di... Il duca attuale, figlio dell'ambasciatore, aveva commesso l'errore di mostrare qualche simpatia per i liberali e da 2 anni era sull'orlo della disperazione. Al tempo di Napoleone, la sua ostinazione nel restare all'estero gli era costata 2 o 3 milioni e, tuttavia, dopo la restaurazione, non era riuscito a arrivare a un certo gran cordone che ornava il ritratto di suo padre. Ci faceva una malattia per quel cordone. L'amore in Italia porta a una intimità assoluta in cui non c'è posto per gli scrupoli della vanità. Così fu in tutta semplicità che Mosca disse alla donna che adorava: «Ho un paio di progetti da sottoporvi. Non sono male, vedrete. Sono 3 mesi che non penso ad altro. Primo, mi dimetto e viviamo da buoni borghesi a Milano, a Firenze, a Napoli, dove volete, indipendentemente dai favori del principe, che possono durare più o meno. Abbiamo 15.000 lire di rendita. Secondo, voi acconsentite a venire a stabilirvi nello stato in cui io godo di una certa autorità e vi comprate una proprietà. C'è quella di Sacca, per esempio. Ha una casa deliziosa, è in mezzo a un bosco e guarda sul fiume. In 8 giorni potete avere in mano il contratto di vendita firmato e entrate a far parte della corte del principe. Certo, qui c'è una grave contrarietà. A corte vi accoglieranno benissimo, nessuno avrebbe il coraggio di mettermi i bastoni fra le ruote. E oltre a tutto, la principessa è convinta di essere molto infelice e io, pensando a voi, mi sono mostrato molto premuroso. Ma il principe è un gran bigotto e voi sapete che purtroppo io sono sposato. Ne può venire un'infinità di piccoli inconvenienti. Voi siete vedova ed è un'ottima condizione, ma dovreste cambiarla con un'altra e qui ho da farvi una terza proposta. Potremmo trovare un nuovo marito poco ingombrante, ma per prima cosa dovrebbe essere molto vecchio, perché non vorrete impedirmi di sperare di prendere un giorno il suo posto. Dunque, questo affare piuttosto strano io l'ho concluso con il duca Sanseverina Taxis, che naturalmente non sa il nome della futura duchessa. Lui sa soltanto che grazie a questa donna diventerà ambasciatore e potrà ottenere un certo gran cordone che aveva suo padre e la cui mancanza lo rende ora il più infelice dei mortali. Tre mesi dopo, la duchessa Sanseverina Taxis fece colpo su tutti alla corte di Parma, con la sua simpatia immediata e con la nobile serenità del suo spirito. La sua casa diventò senza confronti la più piacevole di tutta la città. Era quello che Mosca aveva promesso al suo padrone. Ranuccio Ernesto IV, il principe regnante, e la principessa sua sposa, ai quali la duchessa fu presentata da due delle più grandi dame del paese, la accolsero con molta gentilezza. La duchessa aveva una gran voglia di conoscere il principe, da cui dipendeva il destino dell'uomo che lei amava. Il principe accolse la signora Sanseverina con molta cortesia e le parlò in modo spiritoso e raffinato, ma lei si accorse benissimo che tutto era tenuto in limiti ben precisi. «Sapete perché?» le disse Mosca dopo l'udienza. «Perché Milano è una città più grande e più bella di Parma. Se vi avesse accolto come io pensavo e come lui stesso mi aveva fatto sperare, avrebbe avuto paura di sembrare un provinciale in estasi davanti a una bella signora appena arrivata dalla capitale. E poi, bisogna che ve lo dica, sono sicuro che c'è un'altra cosa che gli dà noia. Vede che a corte non c'è nessuna che possa gareggiare con voi quanto a bellezza. Pernice, il suo primo cameriere, che è molto premuroso con me, mi ha detto che ieri sera, prima di andare a letto, non gli ha parlato d'altro. Credo che ci sarà una piccola rivoluzione nell'etichetta di corte. Il mio grande nemico qui è un imbecille che si chiama generale Fabio Conti. È una specie di maniaco. Figuratevi, avrà passato su un campo di battaglia un giorno solo in tutta la sua vita e da allora si dà le arie di Federico il Grande. Ma non è tutto. Un'altra cosa a cui tiene molto è mostrare la nobile affabilità del generale Lafayette, e questo perché è il capo del Partito Liberale. E che razza di liberali siano, lo sa solo Dio. «Lo conosco, Fabio Conti», disse la duchessa. «Ne ho avuto la visione una volta vicino a Como. Stava litigando con dei gendarmi e raccontò come erano andate le cose. Se mai la vostra mente riuscirà a penetrare le profondità della nostra etichetta, signora, un giorno saprete che le ragazze possono essere accolte a corte solo dopo il matrimonio. E per quanto riguarda la superiorità di Parma su tutte le altre città, il patriottismo del principe è talmente ardente che scommetto che troverà il modo di farsi presentare la piccola Clelia Conti, la figlia del nostro Lafayette. Devo dire che è una ragazza incantevole e 8 giorni fa era ancora considerata la più bella del paese». La serie dei successi di Gina fu interrotta dall'accoglienza che le fece la donna più abile di tutta la corte, la famosa Marchesa Raversi, l'espertissima intrigante che era a capo del partito rivale di quello di Mosca. La Raversi era sempre stata ostile a Mosca, ma da qualche mese i suoi sforzi per rovesciarlo erano raddoppiati. Il duca Sanseverina, infatti, era suo zio, e lei aveva paura che le grazie della nuova duchessa mettessero in pericolo l'eredità. Mosca aveva visto giusto. Pochi giorni dopo la presentazione della duchessa, Clelia Conti fu nominata canonichessa e entrò a corte. Per parare il colpo che questo favore poteva aver l'aria di portare al credito di Mosca, la duchessa, con il pretesto di inaugurare il giardino del suo palazzo, diede una festa e, servendosi di tutta la sua grazia, fece di Clelia, la chiamava la mia giovane amica del lago di Como, la regina della serata. E come per caso, le decorazioni trasparenti poste davanti alle luci più in vista portavano le sue iniziali. Clelia, benché sembrasse un po' assorta, parlò in modo molto simpatico della piccola avventura vicino al lago e della sua gratitudine. Si diceva che fosse molto devota, che le piacesse star sola. «Scommetto», diceva Mosca, «che è abbastanza intelligente da vergognarsi di suo padre». Alla duchessa quella ragazza era molto cara. Se ne fece un'amica. Non voleva che la gente pensasse che lei era gelosa di Clelia e la invitava sempre ai suoi ricevimenti. Del resto, il suo sistema consisteva nell'attenuare tutti gli odi di cui Mosca era oggetto. Tutto andava bene per la duchessa. Quella vita di corte, sempre minacciata da qualche tempesta, la divertiva. Le sembrava di ricominciare a vivere. Provava per Mosca molta tenerezza e un grande affetto. Lui era letteralmente pazzo di felicità e questa piacevole situazione lo metteva in grado di agire con assoluta lucidità in tutto quanto riguardava soltanto le sue ambizioni. Così, 2 mesi appena dopo l'arrivo della duchessa, Mosca fu nominato primo ministro, carica che gli dava privilegi quasi pari a quelli dello stesso sovrano.